Brasil, la nostalgia è tu Brasil, Brasil sta lì, l'Italia chi. Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. Giovanni Capuano oggi non c'è, aveva un impegno, quindi mi spiace, sono da solo. 800 24 00 24, ma ci siete, ci sarete sempre anche voi ogni giorno dalle 18 alle 20 per tutti convocati alle Olimpiadi. Io e i miei angeli custodi, Claudio Schiattone, il nostro autore, Lorenzo Nespoli, Leonardo Sirigato in redazione, Pietro Accorti in regia. Loro sono i miei angeli custodi e Leo Turrini è il mio numero tutelare olimpico, ma non solo. Ciao Leo. Buonasera maestro Genta. Come stai? Sei pronto? Ma hai fatto, insomma, la valigia? Sono quasi pronto. So che Dario Ricci ha promesso di farmi da badante, sì, essendo lui agevolato dall'età nei miei confronti, e quindi domani sera ci imbarchiamo, arriviamo. Avrai visto che abbiamo anche questo caso doping, eh? Ho visto della la notizia bella, di giornata. Della bella pallavolista da bici azzurra. Tra l'altro devo dirti che questa storia della Orsi, secondo me, al di là del dispiacere perché lei e la sua compagna erano tra le candidate a una medaglia, sì, ma è anche un brutto segnale per la storia di Schwarzer. Sì, è un brutto segnale per la storia di Schwarzer, che parte comunque, ha detto no, io vado a Rio, ci vado comunque, poi decideranno e no, io non suo, voglio diciamo che il essere suo qui, processo c'è l'8 di agosto, Olimpiade già iniziate. Questa è una delle stranezze di una storia che comunque la si giri non manda un bel odore, no, perché arrivare a Olimpiade già iniziata senza che ci sia stato un procedimento rispettoso delle istanze di tutti, delle istanze dell'accusa come della difesa, è veramente sgradevole. Poi decideranno lì sul posto con i periti in videoconferenza. Però la storia della Orsi, che certamente sicuramente sarà diversa, penso, vorrei anche dirti, temo che possa incidere sulla sorte di Schwarzer, perché la positività di un'atleta italiana anche in questo caso per presunto uso anabolizzante, anabolizzante. Ricordiamo la vicenda, si era diffusa, allora la storia è stata questa: in mattinata si era diffusa una voce secondo cui una pallavolista italiana sarebbe risultata positiva all'antidoping. Il CONI ha prontamente smentito. Poi si è saputo che non era una delle ragazze di Bonetta, ma era appunto Vittoria Rossitot, che con Marta Menegatti era la coppia italiana del beach volley, in un'edizione in cui peraltro presentiamo record di partecipazioni, due coppie maschili e appunto una femminile. Adesso sospesa Rossitot, arriverà qualcun altro, probabilmente la Perry, e dunque c'è un altro cambio in corsa per malaffare, per storiacce di doping. Intanto io invito gli ascoltatori per parlare di tutto quello che vogliono. 800 24 00 24, valgono anche i social network di Vieri, Vialli, Deschamps e Zidane, poi magari ve li faccio sentire che sono divertenti. E a proposito di social network, se volete invitare a casa vostra Bobo Vieri potete farlo usando anche, pure per dire qualcos'altro, non solo per invitare a casa vostra Bobo Vieri, che è un po' impegnativo, potete usare gli audiomessaggi di WhatsApp 349-238-6666. Hai visto, Turrini, come sono ipertecnologico? Beh, ma tu appartieni alla generazione, come si suol dire, dei millennial, no? Ma che millennial? Stai usando tutti dei termini che per me, che sono, potrei essere tuo padre, Leo, sono non strogotto, hai capito? A me li scrivono. Comunque io mi fido di quello che hai detto, cioè possono invitare Bobo Vieri? Sì, posso invitare Bobo Vieri. Per chiedergli che, non lo so. Adesso no, io, che ne so io, hai visto che ha detto vado a giocare in Cina e poi Vialli gli ha risposto ma dove vuoi andare a giocare? e poi si è messo Zidane che correva a New York, guardate come sono in forma, e poi Deschamps che gli ha fatto vedere il pallone, gli ha detto Bobo questa qua non la tocchi più, e sono storie d'estate di social network e di ragazzi che si divertono così. Cosa vuoi che ti dica? Io sono rimasto al flipper che proporrei di introdurre alle Olimpiadi, però quello con i bersaglietti, hai presente quello del bar dove c'erano i bersaglietti che dovevi tirare giù, non quelli che fanno tanto rumore, c'erano quelle strane freccette posizionate sui lati del flipper, bravo, che se riuscivi ad abbatterle tutte ti facevano scattare lo special, allora si chiamava così, e avevi diritto minimo a una palla in più, esatto, o addirittura a un'intera partita. Effettivamente sarebbe stata una meravigliosa disciplina olimpica, anche perché richiede una certa forma fisica, il flipper. Beh, sai, quando dovevi spostare il flipper, no, per evitare, senza mandarlo in stallo come direste voi giovani oggi, ma per evitare che una palla a tradimento ti filasse giù dritta, dovevi avere una bella muscolatura, un po' quella che ha il nostro eroe idolo Dong Dong, sì, il campione cinese dei tappeti elastici, campione olimpico. E appunto io spero di trovare a Rio, perché sarà una delle interviste più importanti della mia vita, io devo assolutamente avere la possibilità di colloquiare con Dong Dong. Io invece spero che si rompa il tappeto. Spero che si rompano gli elastici del tappeto, Ario. L'unico modo in cui potrebbe interessarmi Dong Dong è il tappeto elastico, per carità. Quando io ti porterò al telefono Dong Dong in diretta per tutti i convocati all'Olimpiade, e tu dovrai dire grande campione, anche perché ho l'impressione, da quello che sento, che sia più serio Dong Dong degli acquirenti cinesi del Milan, io non voglio dire. Pare di sì, però Dong, sai, Dong Dong Dong l'Olimpia della vinta, io ve lo dico. Gli acquirenti cinesi del Milan sono un po' lì sparpagliati per gli aeroporti, diciamo così, in attesa di notizie con loro 24 ore. Ma però vengono tutti a Rio con me a applaudire la Dong Dong, replica dorata di Dong Dong. Dong Dong, certo. Comunque Gancikov e Galiatoto hanno smentito. Non è vero quello che dicono in Cina, che tutto salta, che l'affare salta, quindi rimangono i milanisti a passare l'estate in un posto non bellissimo, nel posto di Tricolor che sono sospesi, quindi rimangono lì. 800 24 00 24 per parlare con noi. Intanto abbiamo un bacino d'utenza sterminato, non so se lo sai, Leo Turrini. Perché la radio, grazie alla tecnologia che io non conosco, ma che esiste, sì, abbiamo ascoltatori in tutto il mondo, oggi c'erano 120 chilometri di code per raggiungere Rio de Janeiro, in bocca al lupo, mio caro maestro. Dimmi dall'aeroporto magari, visto che ci si arriva in aereo e ci sono 120 chilometri per raggiungere il villaggio olimpico, ci ricolleghiamo lunedì. Sì, sì, no, verso metà dei giochi, però c'è il sindaco di Rio de Janeiro che mica è nato ieri, a Ganesh Lefesso, che ha detto, no aspetta, anche il giorno prima della cerimonia inaugurale è giorno festivo, quindi non vi affannate, andate piano, non vi mandiamo a lavorare, e dunque potreste, tu e Dario Ricci, potreste anche trovare la strada sgombra. Adesso ci fermiamo. Sì? Ci fermiamo per il traffico, perché è il tuo appuntamento preferito, Pero Cormano e dintorni. Devi sapere sulla Pero Cormano se c'è ancora Marchionne fermo con la dicono multipla. Di sì, dicono che sia ancora fermo con la multipla metano. Vabbè, lo aspettiamo. Uomo, eh? Uomo col maglione anche d'estate. Traffico. Tutti convocati. Convocati alle Olimpiadi. E sì ragazzi, vi portiamo alle Olimpiadi tutti i giorni, tutte le sere dalle 6 alle 8, se preferite dalle 18 alle 20. Siamo qui a raccontarvi le Olimpiadi con Leo Turrini in partenza, per il quale io ho diversi messaggi. C'è chi domanda, caro Turrini, come fai con il fuso orario? Che tecniche da ninja giornalistico utilizzerai? Spero non quelle dei tecnici Ferrari. E poi dite a Turrini che a Rio anche le Ferrari fanno coda. Poi c'è chi scrive, sempre WhatsApp, i cinesi del Milan arrivano insieme ai soldi di Manenti. Poi c'è chi scrive, vorrei invitare Bobo Vera a casa mia in compagnia dei miei pitbull per vedere se corre più di loro. Poi c'è chi chiede, invece molto più seriamente, parla dell'UCI che divulgherà i nomi di 83 dopati, Unione Ciclistica Internazionale, dopo le Olimpiadi, scandaloso. Ma intanto parliamo di tutto quello che volete. C'è Franco D'Asti che è in linea, un ascoltatore. Sto per chiederti invece della più grande superstar che hai mai visto gareggiare nella tua pluriennale, decennale, secolare esperienza olimpica. Sei pronto? Franco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Carlo Gento, buongiorno al mio nome tutelare della pallavolo Leo Turini. Sì, dica. No, niente, volevo chiedere a Leo come vede la nazionale di pallavolo alle Olimpiadi, visto che a quello punto siamo inseriti in un girone non di ferro, direi di più, ho paura che veniamo a casa col primo aereo. La sento male, ma anche perché sto diventando ufficialmente sordo. Comunque credo che la domanda si sia capita. Leo, come vedi le nazionali azzurre? Partiamo da quella maschile. Sì. Quella maschile ha una grande opportunità, a mio parere, sì, perché l'ingresso di Juan Toregna, il cubano, nel sestetto azzurro ha fatto fare un salto di qualità enorme alla squadra, e l'abbiamo visto alla Coppa del Mondo lo scorso autunno, dove gli azzurri hanno chiuso al secondo posto. È un torneo, quello di volley, equilibratissimo, perché è vero che i brasiliani sono molto forti, giocano in casa, hanno i miei amici Bruno e Lucas che hanno fatto il triplete con la maglia di Modena in Italia nell'ultima stagione, però non è che il Brasile sia talmente superiore a altre squadre, penso agli Stati Uniti, alla Polonia, alla Francia di Ingapet, da potersi affermare che c'è un verdetto già scritto. Dipende molto da due cose, parlando degli azzurri: la dinamica del torneo, perché in realtà il girone sono due gruppi di sei squadre, tu lo passi comunque perché vanno avanti le prime quattro, diventa fondamentale il quarto di finale, e quindi lì bisogna vedere chi becchiamo, perché gli incroci sono 1-4, 2-3, sì, eccetera, sì. E poi c'è una scelta tecnica che invece appartiene in esclusiva a Benengini, che è il commissario tecnico, che è un allievo del leggendario Giulio Velasco. Io farei giocare opposto, questo lo dico per gli appassionati di volley, non per Carlo Gente che sa solo di basket. Ma non è vero, entra. non è vero. E io farei giocare opposto Vettori, che è cresciuto tantissimo, che ha vinto tutto con Modena appunto nell'ultima stagione, e non Zaitsev. Senti Leo, mi sembra però adesso che il commissario tecnico voglia mettere Zaitsev opposto, quindi non la pensa come me. Le ragazze, poi ho finito. No, aspetta un attimo, alle ragazze arriviamo dopo perché abbiamo un ospite. Parlavamo di superstar, una superstar che purtroppo a questa edizione delle Olimpiadi non vedremo, era una delle più attese della spedizione azzurra, è questo signore. Abbiamo con noi Gianmarco Tamberi. Leo. Beh, un grandissimo. Io ho scritto di lui recentemente, come tutti credo, ho provato un dispiacere che mi ha rimandato alla mia giovinezza, forse Jimbo non era ancora nemmeno nato. Stavamo per partire per Barcellona nel 92 e Yuri Checchi era il grandissimo favorito per gli anelli nella ginnastica e si sfasciò il tendine d'Achille proprio pochi giorni prima di salire sull'aereo per la Catalogna. Però volevo dire a Jimbo veramente di prendere esempio da Yuri, perché 4 anni dopo ad Atlanta ci siamo alzati tutti in piedi quando la giuria ha decretato che Checchi finalmente aveva conquistato l'oro agli anelli. Io penso che ci abbia pensato anche lui. Ci ha pensato, ma voglio dirgli che a Tokyo ce la farà. Gianmarco, ciao. Grazie. Ciao, buonasera a tutti, grazie mille della fiducia, non sarà poi così facile, però sicuramente Yuri Checchi è un grande esempio da prendere in questo momento per me. Senti Gianmarco, io voglio raccontare un aneddoto personale che però mi ha fatto sorridere. Ero al Policlinico di Pavia, dove sei stato operato, ricoverato, sì. A un certo punto sapevo già del tuo infortunio, perché mi era stato detto, vedo passare davanti alla stanza la troupe di Sky con Lia Capizzi, che si è accampata all'ospedale, che conosco molto bene, che saluto. No, sono stati giorni di, io credo, di grande dolore, più emotivo che fisico. Sì, il dolore fisico in realtà neanche c'è stato, è stato solo un dolore all'interno della mia testa e all'interno soprattutto del cuore, sapere che un sogno così grande che coltivi da così tanto tempo e a cui sei veramente a un passo, neanche, a un niente, si frantuma così

Nuova Giulietta. Guida l'istinto. Tua con finanziamento a 165 euro al mese. E solo ad agosto sulle vetture in pronta consegna tutti gli optional sono in omaggio. TAN 395 TAEG 626. Info su alfaromeo.it. Convocati alle Olimpiadi. E qui siamo entrati con Blanca Vlasic su un in un terreno minato, cioè già chi chiede a Turrini qual è la giocatrice di beach volley più accattivante che hai visto alle Olimpiadi. No, l'elenco è lunghetto, credo. Beh, penso che sia un settore nel quale, insomma, come si dice alle elementari, le bambine belle e brave, no? Ecco, anche nel beach. Bravo, bravo, bravo Leo. 800 24 00 24 per chiamarci, oppure per SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 349 238 6666. Ormai mi sto eccitando anche io questa storia dei WhatsApp vocali. Arriva bene, cerca nuove idee per vincere. Dong Dong sarà ingaggiato dalla Ferrari per fare un motore più elastico, scrive Walter. Andrea da Milano, buonasera. Dimmi Leo. No, non vorrei che qualcuno pensasse che Don Don non esista. Esiste veramente. Ha vinto l'oro olimpico nel tappeto elastico a Londra. Controllate, per favore. In carne e ossa e occhi a mandorla. Andrea. Esatto. Andrea. Andrea da Milano. Andrea da Milano, Andrea da Milano e uno, Andrea da Milano due, Andrea da Milano, richiamiamo subito. Invece, Leo, qual è la più grande, te l'ho chiesto prima in anticipo, domanda indifferita, la più grande superstar, lo chiedo anche agli ascoltatori. Beh, tu hai più culo che anima, perché le Olimpiadi le hai vissute per tanto tempo. La più grande superstar che hai visto dal vivo? Allora, naturalmente si potrebbero fare tanti nomi, e poi ognuno ha, da telespettatore o da spettatore dal vivo, la sua lista di imprese favorite. Io devo citare banalmente Carl Lewis, ma per l'ultima medaglia d'oro, Atlanta 1996, nel salto in lungo. Era ormai vecchio e logoro, il figlio del vento, non gli fecero infatti disputare la staffetta veloce 4% eccetera, e lui riuscì a vincere una gara incredibile con un balzo a 8,50 m. 12 anni dopo il famoso poker dorato in stile Jesse Owens di Los Angeles. Devo dirti che eravamo allo stadio quella notte lì e fu molto difficile resistere alla commozione, perché Lewis non è mai stato uno amatissimo, eh? È vero, vero, vero. Perché aveva degli atteggiamenti, un modo di porsi, insomma. Io ricordo che quando Mike Powell riuscì a batterlo in quella gara sensazionale ai mondiali di atletica a Tokyo del 91, Powell tolse il record leggendario di Bob Beamon passando da 8,90 a 8,95, insomma tantissimi furono contenti perché Lewis aveva perso, hai capito? Sì. Perché appunto era un po' così. Però nel 96, che sapevamo che era l'ultimo atto, e nessuno mai ha vinto 4 volte di seguito l'oro nel salto in lungo alle Olimpiadi, fu veramente, insomma, la sceneggiatura di l'ultimo un film volo, perfetto. L'ultimo volo del figlio del vento. Me lo ricordo, poi la conferenza stampa dopo, lui era antipatico come sempre, ma noi eravamo tutti, sinceramente, sono passati 20 anni. Senti, c'è un'altra medaglia che ti voglio ricordare, una medaglia azzurra che hai vissuto all'ultima edizione dei giochi, una medaglia di bronzo, ma in uno sport che di medaglie, salvo una, maledizione, salvo una, ce le date tutte, sentiamo. Concentrati in ricezione gli azzurri su Parodi, Travis al centro per Birarelli ed è 25-21, l'Italia si aggiudica la medaglia di bronzo. Avremmo firmato alla partenza per questo risultato, avevamo sperato in qualcosa di più nella finale per l'oro, ma è comunque un risultato grandissimo. Dunque, torniamo a bomba, pallavolo. Leo Turrini deve ancora una risposta agli ascoltatori. Abbiamo Gigi Mastrangelo con noi, quindi confrontatevi, ragazzi, voi due. State? Benissimo, Gigi, tu? Anche. Grande pallavolista. Diciamo non proprio bene, perché dopo 4 edizioni a cui ho partecipato, rimanere a casa, perché comunque gli anni passano per tutti, un po' po' mi rode un po', dai. Ti posso capire, nonostante rimanga un grande sex symbol dello sport italiano. Grazie, ne parlavamo anche prima, no? Turrini, sarai d'accordo? Conosci bene Mastrangelo. Beh, adesso vogliamo chiedere finalmente grande Turrini, grandissimo. Grande Turrini. Grazie Gigi. Vogliamo chiedere finalmente a Gigione, adesso che ti sento meglio Gigi, vogliamo chiedere finalmente a Gigione come andò quella volta che Madonna lo voleva ingaggiare il suo corpo di ballo per la tournée in Europa e Gigione, quando gli proposero di indossare il perizoma, si tirò un po' indietro. Allora qui a tutti gli ascoltatori di Radio 24 io vorrei che il dottor Mastrangelo ci chiarisse questo dettaglio rimasto sempre sospeso. Guarda, che tanto quando mi chiami Gigione mi piace un sacco, mi mancava un po' dopo tanti anni. Allora, il discorso Madonna andò in questo modo. Nel suo tour italiano la ragazza voleva, diciamo, tre fisici, tre statue da frustare in un suo spettacolo, dico spettacolino. Qui l'argomento si fa già piccante, perché poi andiamo su Dennis Rodman e dintorni, perché voglio capire anche di più sulla storia di Mastrangelo. Allora, che venne nel web, su internet, fece un po' di giri e arrivò anche a me, no? Perché ero uno dei tre nomi. C'era un giocatore di basket e un ragazzo del nuoto. Niente, come tu benissimo sai, il volley, essendo un mondo un pochino piccolo che non ti permette queste piccole uscite, queste, diciamo, io le chiamerei anche cazzatine, non ti permette tutto questo, quindi morì lì e in qualche modo riuscì ad avvisare che non potevo farmi frustare dalla ragazza. alias la signora Ciccone. La signora Ciccone, che come sai ha avuto trascorsi con gli sportivi che piacciono parecchio. A Madame. Ci sarà un motivo. Da Dennis Rodman a Charles Barkley a qualche altro gestista, ma il carnet è ricco, caro Turrini. Visto che stiamo parlando di donne, parliamo di cose serie, dai, parliamo di Olimpiadi. Queste sono cose serissime, queste, Giorgio, sono cose serissime. No, perché Leo Turrini è in debito con gli ascoltatori di una risposta sulla. Ha parlato della nazionale maschile e se ripeti rapidamente, sentiamo se Mastrangelo è d'accordo, e completerei il discorso su quella femminile. Sì, tanto volevo dire, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, perché sennò sembra che Mastrangelo fosse solo uno che Madonna voleva frustare. Gigi è stato uno dei più grandi giocatori italiani di pallavolo, ha vinto tre medaglie alle Olimpiadi e solo Samuele Papi ha fatto meglio di lui nella storia di questo sport, vincendone quattro. Purtroppo manca quella d'oro, ma stiamo parlando con uno storico che ha fatto la storia delle Olimpiadi, Gigi Mastrangelo. La pallavolo italiana. Ecco, io ho detto prima, Gigi, sulla squadra di quest'anno, che secondo me, avendo inserito un fuoriclasse assoluto come Quanto Regna, infatti, abbiamo la possibilità di giocarcela. Dipenderà molto dal quarto di finale, perché il girone lo passiamo comunque, tu sai la formula, le prime 4 su 6 vanno avanti. Sì. Io, se fossi Blengini, però giocherei con Vettori opposto e non Zaitzer, non so come la pensi tu, ma farei quella scelta lì. Ma lo farei anch'io, perché comunque è uno che ha fatto bene finora, è un ragazzo anche se giovane, ma comunque è forte, i suoi palloni a terra li mette. È chiaro che rispetto a Zaitzer, forse nel ruolo di opposto, ha ancora un qualcosina in meno. Però sono due grandi martelli e Brenzini ha questa fortuna qui di poterli utilizzare come meglio crede, anche in base alle squadre che affronterà, no? Mm-hmm. Però io sono d'accordo con te. Senti Gigi, come ricordava Leo, tre medaglie olimpiche per te. A proposito, dove le tieni? Bronzo a Sydney, argento ad Atene, bronzo a Londra. Sì. Dove sono? Ce le porti? Ce le fai toccare? Le ho nascoste con cura, conservo con cura. Le conservi con cura. Tra poco le farò, le incornicerò, farò un bel quadretto in plexiglass con insomma, le metterò esposte, insomma, sono cose belle da far vedere. Certo, quello immagino, però quello che volevo chiederti è questo: avete sentito la pressione in queste, nelle quattro edizioni in cui hai partecipato, la pressione dell'assenza di quell'oro? Cioè, era presente in mezzo a voi quella medaglia d'oro che non c'è? Un po' sì, perché è comunque un argomento che viene comunque toccato tutte le volte, ma non solo negli anni, nell'anno olimpico, se ne parla sempre, se ne parla all'europeo, se ne parla al mondiale, è una medaglia che comunque manca, e... però la pressione comunque non si sentiva e non si poteva... Non ignorare. Si poteva non sentire, ecco. Ma penso che nelle squadre in cui ho giocato, nelle squadre che hanno lottato per una medaglia olimpica, credo che non abbia così influito, diciamo, sotto come pressione. Penso che abbia influenzato poco questa mancanza. Allora, Leo Turini, dimmi la tua sulla nazionale di Bonetta, poi facciamo rispondere Mastrangelo, poi vi lascio andare. Insomma, credo che le ragazze non siano tra le favorite. Sì. È un gruppo, a parte tutta la storia della Diouf, sai, che è stata lasciata a casa con SMS, insomma, però no, probabilmente Bonetta è come te, caro gente, che sei un millennial e usi solo queste nuove forme di comunicazione. Per carità, è già tanto se riesco a usare il telefono. No, io credo che dovrebbe comunicare in questo modo. Ma bravo Gigi, penso anch'io. Bonetta è un amico, però in questa circostanza, al di là della scelta che non mi permetto di giudicare a livello tecnico, avrebbe potuto, secondo me, fare prima la telefonata invece dell'SMS. Però al di là di questo episodio non penso che la nostra nazionale femminile sia da podio, ecco, per quello che abbiamo potuto vedere in tempi recenti potrebbe essere un'esperienza importante per le più giovani, ma io considero le brasiliane, le americane, le cinesi, insomma, ancora sono di un altro, pianeta. Sei d'accordo, Gigi? Beh sì, questo sono d'accordissimo, però sai, sono scelte, io... Non mi permetto di dire nulla, anzi non voglio proprio creare magari anche qualche... Sai, se sbaglio una parola succede un macello, lasciamo perdere. Però sai, come è successo tipo agli europei quest'anno, di calcio, sì, che l'Italia non partiva comunque favorita, ma ha fatto bene, è arrivata fin dove è arrivata, facendo bene, insomma meravigliando tutti, e chissà, secondo me potrebbe accadere la stessa roba anche a questa nazionale femminile, composta da, diciamo, da giocatrici non tanto esperte, ma no, piuttosto giovani e acerbe, anche piuttosto giovane e acerbe. Sai, io mi sarei comportato in un altro modo, ma non sono io il tecnico e non so se sarò mai un tecnico. Sì, e comunque gli SMS meglio lasciarli a Turrini. No, vabbè, quello è un altro discorso. Meglio lasciarli a Turrini, abbiamo, gli SMS. Sì, abbiamo già abbiamo già dato. Grigi, grazie Gigi, grazie. Ragazzi, grazie a tutti voi, è sempre un piacere parlarvi. Reciproco, ci vediamo in TV su Sky, mi dicono, dove sì. Leo Turrini ormai è dominatore assoluto. Quindi ci divertiremo sicuramente. Vi divertiremo. Ciao sicuramente. Gigi, hai fatto bene non farti frustare da Madonna, bravo. No, ma scherzi. Una pelle delicata, caro. Ciao Gigi Mastrangelo. Leo, saluta anche te, che dovrei andare a finire le valigie. Molto bene, allora domani ci possiamo sentire mentre io aspetto col mio badante Dario Ricci il volo per Rio. Ma meraviglioso, meraviglioso. Ciao Leo, ciao, ti abbraccio. Buona serata, ciao. Allora, adesso avete mandato degli altri WhatsApp perché siete dei golosoni, ve li facciamo sentire e poi arrivano i miei amici fuori posto. Se Vieri torna a giocare, allora veramente siamo nel mondo di Paolo Roberto Cotechigno. Bobo, va che devi fare una bella scorta per quando finisce il primo tempo negli spogliatoi, lì non te lo danno mica la trippa alla cazzera, eh. Vai Bobo, vai, centravanti di sfondamento. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Allora, stanno arrivando i miei amici fuori posto, su cui ho interessanti notizie da raccontarvi dopo il debutto di ieri, che insomma abbiamo lavorato duro per per far funzionare la coppia, ma dal punto di vista sentimentale ed emotivo. Ora vi racconto tutto. Nicola da Udine, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi convocato. Grazie a lei. Io avevo solo una domanda che magari girava ai vostri ospiti. Io seguo sempre molto volentieri le Olimpiadi, però le gare di corsa come i 100 metri, 200 metri, sono quelle che poi danno più risalto all'individuo e diventano famosi i vari Bolt, i vari Carl Lewis che avete menzionato. Mi chiedo come mai altri sport nelle Olimpiadi hanno delle caratteristiche senz'altro molto personali, perché ci sono stati grandi campioni, però come mai diventano famosi sempre quelli che vincono i 100 metri o che fanno i record sui 100 metri, sui 200. Anche noi italiani abbiamo avuto grandi campioni, però non sono mai stati osannati a livello mondiale come quelli che vincono. Poi Mennea, ad esempio, non mi sembra che abbia avuto, anche se ha vinto queste gare qui, però non ha avuto poi una Direi, Nicola, no, ha avuto una grande, cioè è un'icona dello sport mondiale Mennea. Poi bisogna distinguere anche le epoche, no? L'atletica è la regina delle Olimpiadi, i centometristi sono le superstar delle Olimpiadi, chi fa queste gare appartiene a una elite ristretta, e nel mondo di oggi sono anche grandissimi personaggi. Carl Lewis lo era a modo suo, Bolt in un'altra maniera, Ben Johnson con tutte le sue disavventure, tutte le sue porcate di doping, lo è pure diventato. È un aspetto molto, anche mediatico se vogliamo, un aspetto che appartiene ai giorni nostri. Prima avevamo sentito Jimbo Tamberi dire: ragazzi, quando entra Bolt allo stadio, e io l'ho visto allo stadio alle Olimpiadi, si accende la luce. Però vorrei accendere un'altra luce su una coppia meravigliosa, così. Ieri ero un po' preoccupato perché le nostre superstar di Radio 24, il Fuori Posto, ogni mattina dalle 10 alle 11, Umberto Alezio e Filippo Roma, Iene conclamate, avevano detto che, insomma, com'è lavorare con te? Ma guarda, reciprocamente, no, lavorare con lui è un disastro, è una catastrofe. Oggi abbiamo fatto opera di pacificazione e li abbiamo visti camminare mano nella mano in via Monterosa. Sì. Buonasera ragazzi. Buonasera, grazie al tuo intervento, alla tua intercessione, Umberto, ci siamo rapacificati e ci è scappato anche un bacetto, sai? Sì, con un pezzettino di lingua. Documentato, sì, puoi dirlo. Sì. Documentato. No, però proprio per te e per i radioascoltatori, noi vorremmo fare un weekend al mare, ci faremo tanti selfie romantici e poi te li invidiamo. Anzi, meraviglioso. Quindi se vuoi venire con noi, Carlo, ti invitiamo. No, devo sto qui. Carlo, vieni con noi perché aspetto. Può nascere qualcosa di interessante. Posso dire una cosa? Non è male, Carlo. Comunque ecco, questo aspetto un po' rude, l'uomo che non deve chiedere mai. Sì. Ma stasera che fai, scusa? Esco con voi a cena, no? a rompervi i coglioni, visto che vi siete appena riappacificati. E anche nel dopo cena, soprattutto dopo cena. Quindi possiamo dichiarare ufficialmente che siete una coppia di fatto radiofonica, sì. Che va d'amore e d'accordo. Per il momento siamo una coppia radiofonica, però potremmo essere anche nella vita. Che ti posso chiedere altri due secondi di quella musichetta bella che ci hai messo? Volentieri, è tutta magari. Quella che vuoi. Tanto, è un momento molto romantico, molto bello. Grazie Carlo, ti vogliamo bene. Anch'io. Viva l'amore. Ah, che bello. Ti piace? Sono pazzo di te, Filippo Umberto. Roma. Stasera ti aspetto in camera d'albergo. Io invece andrei a Rio, sì. Dove a Rio. Che c'è a Rio? Molto, c'è qualcosina a Rio? Io sono no? molto più prosaico, sì. Volendo anche banale carnale, sì. Vorrei sapere cosa succede a Rio, come in tutti i luoghi in cui ci sono grandi manifestazioni, sappiamo bene che c'è la carica delle 100.000 signorine della notte, certo, no? Certo, no? Sapete qualcosa? Sì, sappiamo qualcosa, che noi siamo così interessati alle Olimpiadi di Rio, ci siamo invece informati sulle tariffe, sui bordelli, sulle prostitute che si possono trovare in questa città. E abbiamo scovato un italiano, sì. Che fa di mestiere l'imprenditore, sì. Che vive tra l'Italia e il Brasile e che in questi giorni sta a Rio e che forse ci può raccontare qualcosa a proposito di questo argomento. Paolo, sei con noi? Ciao, buonasera a tutti. Ecco Paolo, ciao, buonasera Paolo. Dai Paolo. Che era dire? Illuminaci Paolo. che noi siamo qui, io, Carlo e Filippo a Radio 24, quindi facci sognare. Come sono queste prostitute, queste donne? Eh? E che è stata a farla? Stiamo a lavorare. Stiamo a lavorare. Ci tocca, no Carlo? Ci tocca? Ci tocca Paolo. A lavorare. Ah. Stata a chiacchierà. A chiacchierà. Io sto a lavorare. Che stai a fare io? Che volete fare io? Oh, dimolo chiaramente. Il lavoro mio funziona 2 giorni al mese. A Rio. Io ci sto 3 mesi. Eh? Cioè, che quindi fai, secondo Rio? Voi che faccio? Immaginiamo. Cioè, dici che fai? Che fai a Rio? Andiamo, a parte lavorare. Dai, sì, sì, tanto siamo tra amici, no Carlo? Sì, si ascoltano 2-3 milioni di persone. Non di più. Come funziona allora, lì? Tu sai che, aspetta un attimo, tu sai che stai rischiando anche tu il posto di lavoro in questo momento. Non ho dubbi. Gratuitamente il posto così, così poi posso andare a Rio. Che bello avere la consapevolezza dell'essere. Come funziona un po' là con le prostitute? Insomma, si parla tanto di questo, dell'arrivo di tantissime prostitute e anche di aumento di prezzi. Insomma, come funziona la prostituzione a Rio, tu che sei un frequentatore della città? C'è i soldi quelli veri, molto ho detto. Ascolta, ma a me, tu se vengi a sta città, tu te pensi che te compri tutto, te compri niente. Qui ci vanno veramente i palanchi. E quanto ci vuole per prendersi una bella prostituta? Tanto, perché premetto una cosa, qui è nata per lavoro, poi io non c'ho moglie, non c'ho figli, non c'ho famiglia, sto da solo, sono arrivato a sto posto 7, 8, 9 anni fa, no 10 anni fa, esattamente 10 anni fa. Ammazza che posta! Perché, Carlo, no, dicono i giornali che c'è stata un'invasione di prostituti a Rio perché hanno seguito l'evento Olimpiadi, no? Ma è normale che succeda così. Cioè succede così per mondiali di calcio, per ogni grande evento sportivo in Europa come dall'altra parte del mondo. Anche per Expo è successo? Per Expo non lo so, per Expo mi manca. Non ho dati freschi. Però è così, no Paolo? Cioè, alla fine c'è una grande offerta per i grandi eventi, no? Qui c'è domanda e offerta tutto l'anno. Sì. Tu puoi fare quello che ti pare. Sì. Vieni qua, ti diverti, ti sdrai. Però non è che manca afflusso di gente. Tutti che mi chiamano... Alla fine io gli faccio pure venire amici, gli faccio pure le spaghettate, gli faccio mangiarci Rikitas, quello che vogliono loro. E io lo dico chiaramente. Però regà, quando si fa lì ad apagà. Perché poi tutti pensano, ah, Real è poco, perché Real praticamente è un quarto d'euro. Ma questo non può essere Real. Scusa, io volevo fare una domanda al nostro amico, chiedergli... cosa pensi della nazionale di scherma italiana? Cioè, secondo te come la vedi quest'anno? Come sta messa? Ma chi la vede la scherma italiana? Ma capito? Io volevo riportare il discorso su... Chi le vede? Non le parlare Paolo, di sport, di atletica, di prestazioni atletiche. Amico mio, famo a capire, qui i stati, a parte quelli grandi, per calcio, per l'arte, per l'atletica, c'entrano 12 persone, di cui uno è l'ambulanza. Vabbè, ma quello per calcio. Ma voglio dire, il lancio del giavellotto qua, ma chi lo va a vedere? Cioè, gli pagano per mannaggia, capito? Forse se siamo spiegati, qui in Brasile non si lavora. Dimolo chiaramente. Cioè, non si lavora. Beh, è bello esportare il Made in Italy, no? Il capitale umano italiano all'estero, che ci fa bella figura, certo, no? Ho detto, io sto qua 3 mesi, ma il lavoro mio sono 3 giorni. Ecco, ma la cosa perfetto. Come c'ho una resa del 300%, non so se rendete conto. Qua ci vorrebbe, e c'era un carico che batteva bandiera liberiana. Come sono queste donne di Rio? Come sono queste brasiliane? Ci stanno di tutti i tipi a Roma. Cioè tu puoi fare come ti pare, vieni qua, te giri, te capi, te studi, però poi devi stare attento, perché qua, diciamo la verità, il limite è alto. E io sul limite sei qui. Il limite è alto. Grazie Paolo, grazie, siamo davvero profondamente invidiosi, grazie a Paolo e grazie ai miei amici. con cui ci ritroveremo anche grazie domani. A te Carlo, i fuori posto pagina ufficiale Facebook, pagina ufficiale Facebook, cos'è, cioè WhatsApp, i fuori posto, cioè, tu sei amico nostro su Facebook? No, faccio subito un'amicizia, però i fuori posto intanto vi ascolto sempre ogni giorno alle 10 del mattino, dalle 10 alle 11, e poi vi ascolto anche in replica dopo questo programma, cioè dalle 20 alle 21. Grazie, a domani. A grazie. Domani, grazie. Grazie, grazie Umberto Arezzo, Filippo Roma, ci fermiamo per il GR, poi torniamo. Alle Olimpiadi, sarei capace di ingessarmi una gamba per poter vedere tutti e 15 i giorni di gare. Tutti convocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Convocati alle Olimpiadi. Nel caso Schwarzer anche qui il mondo si divide in due, giustizialisti e colpevolisti. Io sto in mezzo, rappresento un'istituzione, non posso dire nulla. L'unica cosa che oggettivamente credo di non sbagliare nel sostenere che il timing di tutta la vicenda oggettivamente non è stato proprio esaltante, e questo non vale solo per il caso Schwarzer, anche per altre vicende di doping. E insomma, se si facevano le cose prima non si sarebbe in qualche modo, se lei vuole, alterato, se vuole macchiato quello che oggi è l'unico vero protagonista dei giochi, cioè sono gli atleti e gli atleti che sicuramente sono in gara e che penso se lo meritano. Questo l'avete riconosciuto in una dichiarazione d'archivio, ma ormai diventata famosa, è il capo del nostro sport, Giovanni Malagò, presidente del CONI. Intanto vi ricordo i nostri contatti, 800 24 0024, numero verde, messaggi SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali, 349 238 6666. Insieme tutte le sere per raccontarvi tutto quanto riguarda le Olimpiadi, dagli aspetti più faceti e divertenti a quelli più seri come questo, perché la notizia del giorno, di questo giorno che ci avvicina alla cerimonia di apertura, è una pessima, nasce sotto una pessima luce, cioè quello di cui abbiamo parlato prima con Leo Turrini, la giocatrice di beach volley della coppia italiana, tra l'altro molto forte, si è qualificata per Rio, Vittoria Orsi-Tot, è stata trovata positiva ad uno steroide anabolizzante. La notizia è uscita questa mattina, si parlava di una giocatrice della nazionale di Bonita, di una pallavolista, invece poi è venuta a galla appunto questa positività, e su questa si innestano altri casi. Vale la pena parlarne, e vale la pena parlarne con un collega che è la massima autorità in materia di Repubblica, Eugenio Capodacqua. Ciao Eugenio, grazie. Buonasera a voi, buonasera. Senti, come valuti questa positività della Orsi-Tot, e come valuti la luce che questo caso può rimandare su Schwarzer, di cui tra poco parleremo? Guarda, come in tutti i casi di doping c'è un duplice aspetto. Da una parte bisogna dire che bisogna registrare che comunque diciamo il sistema antidoping messo in piedi dal CONI in qualche modo sta dando i suoi frutti, cioè bisogna riconoscere che Nadia Aliano, ancorché sia una struttura all'interno del mondo sportivo, strutture personali sono finanziate dal CONI, si tratta di un organismo autoreferente, sì. Comunque si sta muovendo con una certa decisione, no? C'è stato un cambio della guardia, c'è l'ex capo del comandante generale dei Carabinieri Capitelli, e qualche cosa via, però è ancora poco, e soprattutto quel poco è indirizzato verso l'unico obiettivo, cioè gli atleti, che gli atleti hanno le loro colpe. C'è un elenco di quelli diciamo recentemente incappati in vicende dopo, oltre alla Orsi-Tot c'è il Mornati, fratello del vicepresidente del CONI Mornati, sempre per un anabolizzante, la Caputo, cioè la Roberta Belista. Caputo, la velista con Klosterboll, il ragazzino under 23 mondiale del 4 senza resi leggeri, Barbara con il Klosterboll, il caso di Vincenzo Bagnale, il figlio di uno dei due grandi fratelloni di Capua, che ben conosciamo, presidente della federazione, eccetera, eccetera. Quindi da una parte diciamo, si può vedere la cosa, il bicchiere mezzo pieno, dall'altra il bicchiere mezzo vuoto, perché si beccano sempre soltanto solo gli atleti, e non che hanno sicuramente le loro colpe, quindi non siamo qui ad accusare, a scusarli in qualche modo, però siamo sicuri che le strutture dentro le quali si muovono questi atleti, cioè federazioni nazionali e federazioni internazionali, siano sempre continuamente all'oscuro. Cioè, il caso della Russia in particolare, sì, si dice di un doping che è organizzato ormai a livello mondiale, però il codice della WADA, che è l'Agenzia Mondiale Antidoping, non prevede nessuna sanzione specifica in merito. Certo. E c'è voluto ancora una volta dei giornalisti, colleghi del Sunday Times, del TV tedesca RD, per tirar fuori l'inghippo, e il CIO ha reagito a posteriori con la commissione ad hoc per arrivare a delle sanzioni. Ecco, ma però, tu come valuti il comportamento del CIO? Pensi sia una decisione pilatesca quella di rimandare alle singole federazioni per quanto riguarda la Russia la partecipazione ai giochi, dove ce n'è soltanto uno, secondo la parabola biblica che raccontava l'altro giorno Leo Turrini, allora può entrare? Oppure ritieni sarebbe stata più utile, forse per tutti, una soluzione draconiana? Ma guarda, anche questa è una cosa che va vista, diciamo, nella giusta luce. Io penso che il CIO nella gestione di questi problemi non sia l'organismo più adatto. Perché? Perché chiaramente siamo in campo di un organismo autoreferente. Chiaro. Cioè, lo sport che controlla se stesso, controllati i controllori, quindi credibilità vicino allo zero, se vediamo poi tutti i casi, gli scandali successi degli ultimi anni. Sono i padroni di casa, quindi non vedono di buon occhio all'esclusione delle stelle, no? Si fanno le regole, se le aggiustano, se le cambiano. Cioè, per dire una, no? Io ho partecipato, ho fatto con un collega Attilio Borsoni, stiamo chiudendo proprio in queste ore, un docufilm sulla vicenda di Schwarzer. Sì. Abbiamo avuto modo di avere delle registrazioni, delle intercettazioni che sono veramente un pugno nello stomaco, dove c'è un alto dirigente della IAF, capo della commissione medica della IAF, che se la prende in maniera terribile con Schwarzer, addirittura prendendo di petto anche la sua ex fidanzata, eccetera, eccetera, parla di un database internazionale che lo preoccupa, se perché nel momento in cui gli vengono sequestrati i computer a casa, eccetera, eccetera. Ebbene, questo signore è stato mandato alla Federazione Internazionale, IAF, a controllare Schwarzer, il quale lo aveva denunciato del famoso processo di Bolzano, sì, va bene, nella gara di Roma. Cioè, sì, è possibile una cosa di questo genere? Cioè, non è possibile assolutamente, in un mondo normale no. Ecco, in un mondo normale è possibile. Nel mondo dello sport invece può succedere. Può succedere perché? Perché purtroppo se fanno le regole, come si dice in gergo, se le cantano. Sì, se le cantano e se le suonano. Invece sul caso Schwarzer 2, che ovviamente tu ti facevi riferimento al primo episodio, quello per cui Schwarzer ha scontato squalifica prevista dai regolamenti. Ora Schwarzer dice: io alle Olimpiadi ci vado perché, anche qui, paradosso dei paradossi, con una giustizia sportiva che qualche volta sembra un po' una caricatura di quella che dovrebbe essere, di quello che dovrebbe essere un sistema giudiziario, sebbene sportivo. Sì, ma è gestito da avvocati, quindi cioè, voglio dire, una volta almeno c'erano i magistrati. Appunto. E comunque un'esperienza di giudizio l'aveva, adesso sono con gli avvocati che tra l'altro hanno anche interessi perché magari difendono questo o quell'altro atleta, ci sono stati casi clamorosi di conflitti di competenza recentemente, comunque diciamo è acqua passata questo. Ma tu credi che Schwarzer abbia qualche possibilità di partecipare? E torno alla domanda che ti ho fatto prima, questo caso della Orsi Tot può avere qualche riflesso sulla decisione che verrà presa? Guarda, non credo, piuttosto diciamo, se la vogliamo vedere in termini positivi, vedo come dire, la possibilità, anche se molto remota, perché purtroppo Schwarzer è alla seconda positività, quindi pesa tantissimo la prima, pesa tantissimo il giudizio, anche se lui ha scontato tutto senza neppure un minuto di detrazione, diciamo, sì, della pena che doveva fare. Quindi c'è il caso della campionessa mondiale di ciclismo, che proprio oggi il TAS ha ammesso ai giochi l'inglese Amistred, la quale aveva mancato tre controlli, però il primo, secondo lo stesso TAS, cioè il tribunale arbitrale, non era stato fatto secondo le regole, quindi i controlli non sono tre, diventano due, e quindi lei può e quindi andare, è stata ammessa. Può andare alle Olimpiadi. Ora, se uno va a vedere come si sono svolti i fatti, la vicenda Schwarzer, di regolamenti e di regole calpestate ce ne sono tantissime, a cominciare dal fatto che la famosa catena di custodia, che è quelle, che sono quelle procedure che devono garantire che le provette vengano sempre controllate, mantenute sigillate, eccetera, eccetera, la famosa catena di custodia non ha funzionato, è un buco nero, cioè un buco di 26 ore dal momento in cui viene fatto il prelievo a Racine all'atleta e il momento in cui queste provette vengono date neppure al laboratorio, al portiere del laboratorio. Sì. Quindi questo è un grave mancanza, una grave inadempienza nei confronti delle regole. Certamente. Inoltre c'è il discorso che, a cui faceva accenno anche il presidente Malagò, e cioè il ritardo. Questo viene trovato positivo a maggio e viene avvisato il 21 giugno. Uh-huh. Gli si consente di correre un'altra gara in Spagna e non si capisce per quale motivo. Poi adesso lo spiegheranno, perché troveranno anche lì il motivo di aggrapparsi a qualche cosa. Certo. Di cose. Io sulla vicenda Schwarzer ho già detto più volte la mia idea. Cioè, per me non c'è il movente. Cioè, non ci si dopa con poche molecole di anabolizzanti a 5 mesi dalla prima gara. E tutta la storia dei controlli fatti sull'atleta, sì, controlli ematici, controlli sull'urina, completi, dice che non ci può essere stato il famoso ricorso alle microdosi, perché io so già qual è la condizione. Cioè, sì, era piccola quantità, però c'è il fatto che gli atleti oggi corrono alle microdosi. Sì. Sì. Non è così, perché tutta la storia dei controlli ne ha fatti più di una 50, alcuni volontari presso l'ospedale San Giovanni qui di Roma e altri ufficiali della IAF, della WADA, eccetera. Ebbene, la storia di quei controlli, cioè, se ci fosse stato qualche altro uso di microdose, sarebbe emersa, emersa. Però Eugenio, mi sembra che qui il personaggio intorno al quale ruota la vicenda sia Schwarzer, certamente, ma sia Sandro Donati, che tutti conosciamo, tu molto meglio di tutti. Sì. E allora, qualche giorno fa il tuo giornale ha pubblicato queste telefonate denunciate da Donati, queste pressioni per, sì, non far svincere Schwarzer a Roma. Come collochiamo questa vicenda e qual è il ruolo di Donati? C'è qualcuno, te lo chiedo banalmente e brutalmente, c'è qualcuno che voleva fare pagare Donati? C'è qualcuno che voleva far fuori Donati? Molto semplicemente, molto banalmente, come ti dico che è evidentissimo. Cioè, Donati è un personaggio scomodo, è uno che da 30 anni costituisce, è una spina nel fianco delle, diciamo, in strutture, tipo appunto le CONI dei tempi di Conconi, eccetera, che facevano del doping uno strumento per raggiungere i risultati. E quindi è chiaro che si colpisce l'atleta, Schwarzer, per eliminare l'allenatore, Donati. Per eliminare l'allenatore. Ora, le minacce fanno parte di un ambiente che io personalmente posso dire, nella mia piccola esperienza, di aver toccato con mano, è un ambiente mafioso. Io quando facevo delle inchieste sul doping, mi sono occupato soprattutto di ciclismo, ma anche di politica sportiva, di CONI, eccetera, eccetera. Ma comunque andavo a parlare con gli atleti mi allontanavano, i dirigenti sportivi, mm-hmm, ordinavano ai loro atleti di non parlare con me. Uh-huh. Perché mi spiego, cioè l'ambiente è profondamente mafioso. Quindi ci stanno queste, tra l'altro sono fatti provati, nel senso che fanno parte di una denuncia presentata alla magistratura ordinaria con tanto di registrazione. Certo, quindi certo. Fa parte di un linguaggio, cioè l'ambiente sportivo è questo, è inutile girarci intorno, è inutile farci ricami sui valori, sulle cose. Purtroppo, ed è inutile anche fare le vergini, come a qualcuno conviene fare. Eugenio, io ti ringrazio moltissimo, torniamo a parlare presto e vediamo, speriamo che sia un'Olimpiade pulita almeno in maniera accettabile. Io ringrazio Eugenio Capodacqua di Repubblica. Noi ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, voglio sentire la vostra voce su tutto quanto, compreso Bobo Vieri, compresa la vostra superstar, ogni epoca che avete visto in uno stadio olimpico o alla TV. voglio chiedervi come seguirete queste Olimpiadi, oltre che su Radio 24, ogni sera dalle 18 alle 20. Vi preparate a fare notte con le Olimpiadi di Rio? Io spero di sì. Ora borse, torniamo. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati alle Olimpiadi. Bene, questa infilata quasi in verticale. Forza Igor, siamo quasi all'uscita. Ecco l'uscita, doppio teso, doppio avvitamento, ben tenuto. Guardatelo bene, ha un aspetto umano, ma è un punto esclamativo pervaso da energia, venuto dallo spazio. Si chiama Igor Cassina, signori. Si chiama Igor Cassina e non ce n'è per nessuno. Allora, ieri, ma anche nel pomeriggio con Marino Bartoletti, abbiamo fatto un discorso che a me intriga molto, ed è quello della grandezza dei nostri fuoriclasse che hanno fatto grandi imprese, che si intreccia con il racconto che è stato fatto di loro dalle grandi voci del nostro giornalismo, da Mimmo Fusco, che abbiamo sentito, ovviamente a Giampiero Galeazzi. Buonasera, Igor Cassina. Buonasera a tutti voi. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Sei d'accordo con me su quanto detto? Posso ricordare anche il racconto di Mimmo Fusco sull'oro di Yuri Checchi. È stato vostra la grande impresa, però la sottolineatura di queste telecronache storiche è innegabile. Ieri Antonio Rossi mi diceva: negli ultimi 100 metri io sapevo che avevamo vinto, non mi sono distratto, non ti puoi distrarre, però già pensavo al podio e già pensavo alla telecronaca che stava facendo Galeazzi. Sì, è vero, abbiamo avuto la fortuna, l'onore e il piacere di avere dei telecronisti che non sono dei semplici telecronisti, insomma, riescono a mettere quell'emozione che va oltre la semplice, tra virgolette, prestazione di un atleta, e riescono a metterci, diciamo, a tutto tondo quegli ingredienti necessari per rendere una bella prestazione ancora più... Beh, leggendaria. Importante. Leggendaria, perché sono imprese leggendarie, ma con questa cornice diventano qualcosa che fanno parte di noi, del popolo italiano. Voglio chiedere anche agli ascoltatori: 800 24 00 24, avete anche voi questa impressione, che vale per Igor Cassina e per Mimmo Fusco, vale per Diabbagnale e per Galeazzi, vale per Nando Martellini nel calcio, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, insomma, atleti che hanno segnato un'epoca, ma anche cornici che hanno segnato un'epoca. Questa Olimpiade di Rio, come te l'aspetti, Igor? L'Olimpiade di Rio, vabbè, il fascino delle Olimpiade lo conosciamo tutti. Io partirò proprio domani, andrò come commentatore Rai per le gare della ginnastica artistica. E ci sono grandi possibilità, principalmente parlo per la ginnastica, ma parlo poi per tutto lo sport, perché sono amante dello sport. Quindi nella ginnastica artistica abbiamo concrete possibilità di vincere la medaglia del colore più nobile con la ritmica, e la possibilità di avvicinarci a un gradino del podio con tre atlete fortissime nell'artistica femminile: Vanessa Ferrari, Erika Fasana e Carlotta Ferlito. Sì. Nel settore maschile abbiamo Ludovico e Dalli, un solo atleta, perché non si è qualificata la squadra, che potrà centrare la finale dei primi 24. E poi ogni disciplina sportiva avrà possibilità di poter ottenere un grande risultato. Tifo molto per tutti gli italiani, in maniera particolare, visto anche l'amicizia con Tania Cagnotto, mi auguro che possa raggiungere quel risultato che sappiamo tutti, insomma, per situazioni particolari non è riuscita, non di certo per suo demerito, a ottenere nelle ultime edizioni. Senti Igor, sei d'accordo con Malagò quando dice obiettivo realistico 25 medaglie per la spedizione italiana, o esagera? Ma allora, facendo un po' un resoconto e guardando l'ultima spedizione e atleti che si sono inseriti, nonostante purtroppo l'infortunio di Tamberi, ci sono queste aspettative, ci sono le possibilità. Poi sappiamo tutti che per un atleta fare l'esercizio giusto al momento giusto, la performance migliore nel momento giusto, a volte magari sempre può non riuscire, però ci sono sempre delle belle realtà e delle belle sorprese alle Olimpiadi. Tanti atleti che magari nell'edizione del mondiale qualificante magari si qualificano, tra virgolette, semplicemente nei primi otto, poi in quell'anno, negli ultimi mesi, riescono ad affinare la loro preparazione, fare magari grazie alla componente adrenalinica e di riuscire a trovare il loro meglio in quel momento, e a scapito magari di altri che non ce la fanno, e arrivano volti nuovi. Igor Cassina, un'ultima cosa, adesso abbiamo in linea, stiamo per parlare con il Deus Ex Machina della cerimonia di apertura dei giochi di Rio, Marco Balic. Al grande direttore d'orchestra, cosa vuol dire per un atleta vivere quella cerimonia? Beh, onore per me poter sentire che le mie parole arrivino a lui. L'Olimpiade per un atleta è veramente un sogno che si realizza, perché partiamo dal presupposto che un bambino che intraprende lo sport da piccolino, dopo poco tempo, nel momento in cui si appassiona, logica conseguenza che si ispira a grandi atleti che nella sua disciplina già partecipano ad Olimpiadi, campionati del mondo, e quindi è proprio un sogno. Ed essere lì allo Stadio Olimpico in un momento così importante, credo che tutto il contorno esterno faccia la differenza. Quindi complimenti a lui che gestisce il tutto. Grazie Igor Cassina, buon viaggio. Grazie a voi, grazie, buon viva viaggio. L'Italia, viva l'Olimpiade. Con queste sonorità si è conclusa l'Olimpiadi di Sochi, giochi invernali di Sochi, di cui Marco Balic è stato produttore esecutivo, così come lo sarà per la cerimonia di apertura e chiusura dell'Olimpiadi di Rio, già ideatore dello spettacolo dell'Albero della Vita, che quasi tutti noi o tutti noi abbiamo visto all'Expo di Milano. Io lo saluto e lo ringrazio. Buonasera. Buonasera, buonasera. Le sono arrivate le parole di Igor Cassina? Ma guardi, innanzitutto la gioia mia di sentire, rispetto mio per l'atleta è il massimo. Infatti faccio questi spettacoloni, faccio questo show, le cerimonie, che sono il massimo dello show che uno possa fare, ambire a fare nel mio mondo, perché in realtà ho mancato le Olimpiadi perché ero uno scarso schermidore. E quindi non sono riuscito a farla per Mosca 1980, e quindi mi è sempre rimasta questa passione per le Olimpiadi, che sono lo spettacolo più bello del mondo, e quindi le cerimonie. Poi mi sono specializzato nel fare spettacolo, e poi piano piano la mia ambizione è sempre stata di fare le cerimonie, che sono, contro l'atleta, fare le Olimpiadi è il massimo. Per uno che fa intrattenimento, fare le cerimonie olimpiche è il massimo, quindi sì. Diciamo, abbiamo anch'io coronato un sogno. Eh sì, ma io capisco benissimo, perché quando sono stato alle Olimpiadi, la cerimonia di apertura di un'Olimpiade, io mi sono, in questa magia, mi sono immedesimato negli atleti e dico, ma per uno così è veramente il sogno della vita. E io credo che anche dal suo punto di vista, sapere che per gli atleti che adesso entrano con le telecamere, si fanno i selfie, con questo grande senso di orgoglio. Leggevo il libro di Larry Bird e Magic Johnson, e il dolore più grande per Larry Bird, che aveva la schiena a pezzi, è stato quello di non poter sfilare nella cerimonia olimpica a Barcellona. Lui dice: ho dovuto mettere via la mia giacca blu, la mia cravatta rossa, i miei pantaloni bianchi, perché a quella cerimonia non dovevo andare, l'ho guardata sdraiato a pancia in giù sul pavimento. Ma infatti per gli atleti, quando entrano, si corona un sogno, e noi infatti molto diamo grandissima importanza al modo in cui sfilano e a cercare di rendere la loro esperienza il più bello e più importante. Non so se tu ti ricordi, a Torino abbiamo fatto un ingresso degli atleti veramente molto divertente, con le donne che avevano le portacartelle, che avevano le gonne, delle mosse montagne. Poi abbiamo un attimo, insomma, dato un senso di gioia, di partecipazione, perché è un momento gioioso, ci dobbiamo dimenticare, è la realizzazione di un sogno. Quindi capisco benissimo un atleta voglia. Infatti gli atleti sono i protagonisti della cerimonia e devono continuare a essere. Infatti su 3 ore della cerimonia di Rio, che vedremo venerdì, su 3 ore della cerimonia di Rio, 2 ore, 1 ora e 50 sono la sfilata degli atleti. Io non so, quindi Sì, no, non so fino a che punto posso spingermi nel chiederti delle indiscrezioni. Chiedimi. No, tra l'altro compare su in copertina di How to Spend It, il patinatissimo mensile Corriere del Sole 24 Ore, che sarà in edicola domani. Marco Balic, cosa succede in questa cerimonia? Che particolarità, cosa ci puoi dire? Non ti chiedo cosa non ci puoi dire, anche se mi interesserebbe molto. Guarda, diciamo delle cose. Innanzitutto non è una cerimonia opulenta come fosse stata la Cina di Beijing o tecnologica e divertente come quella di Londra, ma c'è una cosa che spaccherà secondo me davanti a tutti i televisori, che è questa: c'è una passione, una voglia di partecipare di tutto l'audience, di tutta la gente. Qui una persona di 5 anni come uno di 75 sanno tutti ballare, c'è una musica strepitosa, quindi tutto questo porterà a un unisono di emozione e di cuore che veramente secondo me farà la grande ingrediente della cosa. È una cerimonia analogica, quindi senza enormi, diciamo così, trucchi faraonici, mm-hmm, tipo Atene, ma c'ha questo senso di gambiarra che è l'arte d'arrangiarsi. Sai quando c'è la carrozzina con la ruota che non funziona e mettono una ruota di bicicletta? È proprio l'arte di arrangiarsi. E poi su tutta la cerimonia abbiamo lavorato molto con alla regia di Fernando Mereyes, Andrusha Wotti della Diana Thomas e la produzione CC 2016. Abbiamo lavorato su fare una cerimonia contemporanea. Il Brasile è quello che è, un po' incasinato, crisi politiche, la GIC, eccetera, eccetera, ma c'è una grandissima umanità. E allora noi abbiamo detto, partiamo dal fatto che il Brasile è l'unico grande giardino rimasto. Diamo un esempio di come noi dovremmo curare questo giardino e proviamo a rendere un messaggio planetario. Quindi il messaggio di cura del pianeta sarà preponderante e attraverserà tutta la cerimonia in ogni sua manifestazione. Tant'è, e chiudo che sennò sono troppo logorroico, ti potrei parlare per ore. No, ma io ti farei ascoltare per ore, non vedo l'ora che sia venerdì a luna di notte italiana. Il calderone è a low emission, ibrido. Cioè, non aveva senso parlare di sostenibilità e poi fare il bracciere olimpico, fare una roba che pompava tonnellate di gas. E quindi ho fatto una piccola fiamma con tutta una struttura cinetica che gira con il vento, e credo che questo sarà un punto a capo nella storia delle Olimpiadi. Anche qui non si tornerà più indietro a quegli enormi braccieri che consumano un sacco di gas, ma si va più per una cosa simbolica. Sì, si torna all'antichità. Sì, in realtà secondo me, pur essendo analogica, questa settimana sarà molto contemporanea, perché parla del futuro del pianeta e ai ragazzi del futuro. È tutta marcata da questa musica pazzesca che c'hanno, perché tutti conoscono la samba, la Garota di Ipanema, sai, le canzoni famose, ma pochi conoscono tutti questi sviluppi del funky passigno delle favela, che ha veramente un beat che è tra l'africano e il beat nordamericano, però rivisitato con la dolcezza e la poesia brasiliana. Quindi insomma siamo molto contenti, e diventerà anche una nostra colonna sonora per tutta la durata delle Olimpiadi. Marco, grazie davvero, in bocca al lupo. Va bene, grazie a voi, grazie. E in bocca al lupo a tutti. Grazie. Marco Balic, che è l'architetto, il demiurgo, il deus ex machina della cerimonia d'apertura, oltre che di chiusura, a Rio de Janeiro, che vedremo venerdì notte dall'una, che tutto il mondo vedrà da venerdì notte all'una italiana. 800 24 00 24, amici miei, che state facendo? State cenando? Fateci una chiamata. Giulio da Torino, o mandateci un messaggio WhatsApp, SMS 349 238 6666. Mentre già vi dico, siamo anche in cronaca, che su uno dei 1000 voli per Rio de Janeiro ci sarà anche il direttore sportivo dell'Inter, Ausilio, che va a trattare Gabigol con un'offerta da 25 milioni di euro. Missione ufficiale per l'Inter in Brasile. Giulio, buonasera. Sì, ciao. Ciao. Grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione, siete i migliori. Grazie. Niente, io volevo enunciarvi il podio dei 3 migliori sportivi della storia. Sì, volentieri. Quindi, vediamo se condivido. Allora, terzo posto Messi, e vi do anche le motivazioni. Messi perché il calcio è lo sport più praticato al mondo e quindi è quello dove è più difficile eccellere. Secondo posto Michael Jordan, perché è l'incarnazione di quello sport, la perfezione nel suo sport. E primo posto Usain Bolt, perché 9,58 non è semplicemente umano come tempo. Sì, e soprattutto perché più si va ad abbassare il tempo, più ogni centesimo conta davvero tantissimo. Io ho fatto atletica con risultati scarsucci, però insomma anche solo pensarlo a 9,58 è umano. Pensarlo è molto difficile, è come contare le stelle, insomma. Giulio, io posso anche condividere il suo podio, si è lanciato un'operazione molto ardita, podio ogni epoca dei più grandi atleti della storia. Siamo alla storia contemporanea, ma ogni classifica è meravigliosa quanto opinabile. Io su quel terzo gradino, se vogliamo rimanere sul calcio, sto con il predecessore di Messi, cioè The Original One, Diego Armando Maradona. Lei mi perdonerà, Poi su Michael Jordan, qualcosa di indiscutibile, sul primo gradino del podio Usain Bolt, e potrà salire ancora più in alto nell'Empireo se farà questa incredibile, se portirà a termine questa incredibile missione della tripletta olimpica. Grazie Giulio, vi aspetto tutte le sere dalle 18 alle 20 insieme a Giovanni Capuano, che domani sarà qui con me. 800 24 00 24, fatevi sentire, voglio sentire la vostra voce sempre, ogni sera. Allora, e voglio sentire anche quella di Emiliano Guanella da Rio. Ciao Emiliano. Ciao, tutto bene? Benissimo. Io vado col domandone, Il Brasile è pronto? E la risposta non tanto. Diciamo lavori in corso. Come dicono qui, non tanto, molto poco, ma sai, il deus è brasiliano. Un po' la parte che tanto non saremmo capaci di preparare le cose 3 mesi prima, un anno prima, le dobbiamo preparare sempre, non all'ultimissimo, al più che ultimissimo minuto. Però insomma, Rio de Janeiro non è affatto pronta per questo Olimpiade. Tra l'altro il sindaco proprio oggi, io avrei detto, sì, e anche giovedì sarà giorno più. Aspetta, Emiliano, ne stavamo parlando prima, stai lì, ti richiamiamo immediatamente perché, come comprensibile, il collegamento con il Brasile non è molto semplice, quindi ripristiniamo subito il collegamento con Emiliano Guanella, che stava per raccontarci quella notizia che prima ho citato con Leo Turrini. C'è una vastissima possibilità di ascolto per Radio 24 e per i nostri amici che dispongono della tecnologia necessaria dal Brasile, perché oggi, come ci stava per raccontare Emiliano Guanella, c'era qualche problema di traffico nei dintorni di Rio de Janeiro, Emiliano? Sì, esattamente. Mi sente adesso, Carlo? Sì, adesso ti sento bene. Ecco, ti dicevo che Rio non è molto pronta. Tra l'altro il sindaco di Rio oggi ha decretato che anche giovedì sarà giorno festivo, non solo venerdì. Praticamente invitando ragazzi, cari concittadini, abbiamo avuto l'Olimpiadi, però per favore andatevi a fare un bel fine settimana lungo un bel ponte, perché insomma la città ormai è collassata dal punto di vista del traffico. Fra l'altro hanno messo anche delle piste esclusive per appunto le delegazioni olimpiche, però le hanno iniziate a collaudare ieri ed è stato un disastro, più di 130 km di code. Quindi problemi organizzativi, problemi di un paese, di una città che arriva all'Olimpiadi in mezzo a una crisi, con politici sicuramente non tanto all'altezza, e quindi insomma speriamo vada tutto bene. Questo, speriamo, ormai siamo sul terreno delle speranze. Sì, speriamo vada tutto bene, e come dicevo ieri, alla fine della festa rimarranno i bicchieri da lavare, o meglio i conti da pagare, e speriamo sia qualcosa di sostenibile per il Brasile attuale, che ottenne mondiali e questa edizione dei giochi in un ben altro clima e in ben altra realtà anche economica. Esattamente, nel 2009 era l'apogeo di Lula, il presidente operaio che aveva portato il Brasile ad avere questa unione fra un paese in cui i poveri riuscivano a mangiare, non morire di fame, perché molti brasiliani hanno queste condizioni, e allo stesso tempo un'economia solida che puntava ad essere la quinta economia del mondo. Ecco, dal 2009 ad oggi è successo veramente di tutto, la situazione non è così né dal punto di vista sociale, economico e politico. I cittadini di Rio e Carioca si chiedono, e a questo punto la domanda è esportabile un po' in tutto il mondo, quanto questi grandi eventi poi possono portare dei benefici, perché la città e lo Stato di Rio de Janeiro è in bancarotta, e questo vuol dire che medici, professori, poliziotti non ricevono lo stipendio, lo ricevono dopo 3 mesi e via dicendo. E tra l'altro il Comitato Olimpico ha già detto che darà un aiuto finanziario, perché sicuramente queste Olimpiadi avranno un rosso, un buco in bilancio molto molto importante. Senti, invece dal punto di vista sportivo, quanta attesa c'è per il Brasile alle Olimpiadi? Loro, sappiamo, interessa loro nel football e su questo non si discute, no? Loro del calcio, però così da lontano non mi sembra ci sia una spasmodica attesa per la maggior parte delle discipline dei giochi, almeno per quelle... Non c'è molto, Carlo, perché... anche molte discipline non sono conosciute, insomma, nei giornali brasiliani. Io vivo qui a Rio, vedo da mesi e proprio pagine e pagine di spiegazioni che cos'è il badminton, che cos'è il pentathlon moderno, e dicendo, nonostante poi la portabandiera del Brasile è stata scelta per internet e sarà proprio un atleta del pentathlon moderno. Il Brasile punta ad entrare nella top 10, questo è il suo obiettivo dichiarato. Noi siamo nel mirino del Brasile, noi intesi come Italia, perché appunto per entrare nella top 10 il Brasile deve prendere più ori di Italia, Corea, Olanda, le nazioni che storicamente sono nei primi 10, è sicuramente volley, beach volley, maschile e femminile, l'oro olimpico, però l'oro olimpico è veramente la medaglia stregata per il Brasile, così come per noi il povero Messi è stregato qualsiasi titolo con l'Argentina. Insomma, io credo che se il Brasile non inizierà bene già nella prima settimana con qualche medaglia in più del previsto, allora si accenderà la passione. Tra l'altro qua c'è un gigante della televisione, che è la Rete Globo, che propone di, si dice sempre, però conoscendoli faranno veramente un lavoro interessante, propone di avere la maggior copertura della storia con 16 canali, più di 300 giornalisti, più di 1200 fra cameraman e tecnici, e quindi i brasiliani saranno invasi ovunque, su internet, per il televisore, dalle competizioni sportive. E poi si sa, insomma, nessuno sa niente della maratona acquatica, ma se si vince una medaglia poi sono grandi esperti, appassionati da una vita di maratona acquatica. Questo succede anche da noi. Grazie Emiliano, ci sentiamo presto in queste grazie lunghe a voi, buon lavoro. grazie Emiliano Guanella, in queste lunghe o corte, dipende dai casi, io mi diverto molto, andrei avanti per ore. Serate olimpiche che vi terranno compagnia lunedì a venerdì, ogni giorno dei giochi. Abbiamo cominciato con un certo anticipo, come giusto per fare un adeguato riscaldamento. Dalle 18 alle 20 saremo sempre qui, io, Giovanni Capuano. C'è l'appuntamento della domenica, classico, tutti convocati weekend dalle 17 alle 19. Dunque le Olimpiadi dovete viverle con voi e soprattutto dovete farvi sentire, come fa Gianni da Lecce, che chiama 800 24 00 24, numero verde. Pronto, buonasera. Buonasera Gianni. Complimenti per la trasmissione prima di tutto. Vorrei dire solo una cosa: 19 e 72, non sto dando dei numeri. Il famoso record di Pietro Mennea. Consentitemi un po' di sano campanilismo, un uomo del sud che ricordo con affetto e con i brividi addosso. È stato un grande e vorrei ricordarlo così. Scusatemi se sono breve, ma Pietro per noi tempi è stato un'icona. Perfetti. Ma non per voi, per noi è stato un'icona. Non è questione di campanilismo, ma anche per i non cinquantenni, anche per quelli più giovani, anche per quelli più anziani, anche per tutti quelli che fanno atletica o hanno seguito l'atletica, che magari non erano ancora nati ma hanno visto mille volte quelle corse, quelle gare, che hanno risentito mille volte quelle telecronache. Insomma, non è inutile essere retorici, non mi diverto nemmeno, però Pietro Mennea è un'icona dello sport mondiale, quindi non era... è solo per voi, per noi, è per tutti. Sì, era la congiunzione dell'uomo con Dio. Io ricordo quel famoso quadro dell'uomo che con il dito tocca il dito di Dio. Lui, quando vinceva, cosa faceva? Alzava il dito verso l'alto, quasi a dedicare la vittoria al nostro Dio. Sì, Gianni, quella è appunto una delle foto iconiche, delle immagini iconiche che le Olimpiadi ci hanno regalato. Le Olimpiadi sono, anche questo è un bel tema, io la ringrazio Gianni, anche questo è un bel tema che possiamo affrontare in questi giorni che precedono le Olimpiadi. Anzi, scriveteci anche delle mail se ne avete voglia, tutti convocati @radio24.it. Ogni Olimpiade ci ha lasciato delle fotografie, delle istantanee che abbiamo visto pubblicate, ripubblicate mille volte, che possono essere immagini di trionfo, immagini di sconfitta, che possono essere anche immagini che mettono in qualche modo i brividi, come ad esempio per me quell'incrocio di occhi tra Carl Lewis e Ben Johnson a Seoul, l'Olimpiade più dopata della storia, ma non lo sto dicendo io, lo dice la storia stessa. E poi leggere quello che Ben Johnson, che Carl Lewis scrisse anni dopo: lo guardai negli occhi, vidi che aveva gli occhi gialli e lo capii, il bastardo l'aveva fatto di nuovo. Con questa citazione di Carl Lewis io ringrazio Claudio Schiattone, nostro autore, Lorenzo Nespoli, Leonardo Sirigato in redazione, Pietro Lacorte in regia, e ci sentiamo domani per tutti convocati dalle 14 alle 15 e per tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20. Ciao ragazzi. Oh Genta, vedi che se prendono Vieri a giocare in Cina mi faccio fare una maglietta sagomata per nascondere la panza e cerco un contratto anch'io, così me ne vado da Roma. Ciao! Andiamo a vincere ancora!